un po' di tempo fa, se vi ricordate, parlavo del libro di Roth, I cercatori di Dio, dove Roth, che è uno psicologo junghiano, portava la teoria di Jung, secondo cui, appunto, così come per le persone il sogno è una compensazione rispetto alla vita cosciente, che è unilaterale. Quindi il sogno contiene dei messaggi che a livello conscio non sono noti, cioè fa vedere un mondo in modo differente da quello che è la vita conscia. Così vale per le collettività, per i gruppi, cioè c'è un, come dire, i sogni sono per esempio le visioni dei profeti, le visioni mistiche, ecco, almeno per un certo settore. Queste avvengono quando la visione di Dio conscia non è più adeguato al tempo. E quindi, diciamo, la visione mistica, la visione che non è nella ortodossia, serve a compensare l'unilateralità dell'ortodossia. E dicevamo quindi, ad esempio, che nel cristianesimo la visione dei padri della Chiesa, che vedevano la Trinità solo tutta spirituale, quindi una Trinità orizzontale, ma tutta sopra l'uomo, Padre, Figlio e Spirito Santo, mancava del rapporto con la terra, con la materia, quindi il Dio trascendente che però non ha contatto con la terra, e questo contatto con la terra, quindi lo spirito immerso nella materia, invece veniva portato avanti come compensazione dall'alchimia, dai cristiani che erano alchimisti e dai gnostici. Ora, in base alla lettura di Mancuso, porterei a ritornare su questo tema, cioè il cristianesimo visto così è quello dei padri della Chiesa, di alcuni padri della Chiesa, non il cristianesimo in sé, perché il cristianesimo in sé, così come alla lettura che me ne dà Mancuso, contiene proprio tutto questo. Cioè il figlio del padre è un uomo in carne ed ossa e nello stesso tempo è Dio, quindi è un'antinomia, è una cosa che cosa indica? Che l'uomo si è divinizzato e che il divino si è umanizzato. E la ragione non ce la fa a tenere insieme queste cose, quindi la ragione aristotelica o è questo o è quello non può reggere, quindi arriva alla tenebre, arriva all'insolubilità, all'antinomia insolubile. Vabbè. Quindi dice Mancuso, il cristianesimo nasce proprio dal riconoscimento della intrinseca contraddittorietà della vita, compresa la vita dello spirito. Ricordate nel discorso di Roth, il cercatore di Dio, dice: il diavolo, la figura del diavolo è qualcosa di necessario, è nata come qualcosa di necessario nel momento in cui si considera Dio totalmente buono. Allora si pensa che Dio è totalmente buono e necessariamente l'ombra diventa il diavolo e il diavolo viene fuori per forza. Beh, Mancuso dice che ha una visione diversa, dice che proprio all'inizio del cristianesimo, all'inizio dei messaggi più antichi, non è così, perché dice, da dove nasce il diavolo? Era un angelo, e un angelo cioè era il principe degli angeli, e cosa ha fatto quest'angelo? Si è ribellato a Dio, ma quest'angelo cos'era? Spirito o materia? Era spirito, quindi la contraddizione esiste già nello spirito, quindi dentro lo spirito c'è sia il divino che il demoniaco, il divino è ciò che unisce, il demonio che è ciò che separa. Ecco, quindi l'operazione che fa Mancuso, un'operazione di rimodellamento, di ristrutturazione, di chiarificazione, didatticamente molto efficace, di che cos'è il messaggio cristiano, che è molto più complesso di quello che normalmente noi che siamo istruiti da questo messaggio crediamo, è molto più infinitamente più complicato, più complesso. E quindi richiede una visione più profonda. Potremmo dire pertanto che l'antinomia, la contraddizione, il momento che si va nel mondo dello spirito è la norma, non è l'eccezione. Ecco. Quindi vi dicevo prima, Mancuso sostiene che un pensiero che non assume in sé la contraddizione è un pensiero che non è adeguato a parlare della vita. È un pensiero, potremmo dire in termini no, riduzionista. Ecco, perché la vita è sublime ma anche tragica, c'è tutte e due le cose. L'uomo cos'è? È un essere divino, sì, ma anche un essere demoniaco, sono tutte e due le cose insieme. Ecco, per cui per esempio in Aleph continuiamo a assistere a dire: guardate che dentro ogni essere umano c'è il divino, ma c'è anche il demoniaco, c'è l'anima, ma c'è anche l'ego. E finché pensate che la vostra madre sia soltanto anima o soltanto ego, vi sbagliate. Questa difficoltà di tenere insieme gli opposti è una difficoltà che ha il pensiero infantile, lo sappiamo benissimo, ce lo insegna Melania Klein in modo. Quindi superare il pensiero dicotomico o questo o questo è la. Bah, è il passaggio necessario per entrare nel mondo dello spirito, altrimenti nel mondo dello spirito non ci vai. Finisci nella maschera dello spirito, che può essere quella buona, quella cattiva, ma è sempre una maschera. Ecco. Uscire dalle proprie maschere vuol dire assumere come fondamento di tutta la vita l'antinomia. Allora, se Dio è completamente, se Dio è amore, com'è possibile che permetta la nascita di creature abnormi? Ma perché questa è antinomia che fa parte della, proprio diciamo, per chi ci crede, della creazione. È nata così la cosa. Ecco. È già nello spirito questa contraddizione. Allora, per chi non ha particolare interesse a pensare alla creazione o creazione, ma sta a vedere i fenomeni del mondo e riflette su questi con pensiero libero, non necessariamente di una, appartenente a una religione codificata, tradizionale, beh, a tutti, a qualunque osservatore attento, appare il mondo che nel mondo esistono differenti livelli, come dicevo prima, quelli materiali, quelli vivi più sottili e spirituali. E alla fine quello che conta non è l'appartenenza a quella o quell'altra religione, l'unica cosa che conta è il tipo di atteggiamento e comportamento che noi abbiamo nel mondo, se stiamo dalla parte dell'amore o dalla parte del potere. Dalla parte dell'amore siamo nel percorso spirituale, dalla parte del potere siamo nel percorso involutivo, diabolico. E purtroppo le istituzioni religiose spesso si alleano al diavolo, nel senso che proprio praticando il potere vanno in quella direzione lì. E questo ce lo insegna la storia un po' di tutte le religioni, non escluse. Ecco. Naturalmente sono più soggetti al discorso sul potere religioni che hanno degli apparati burocratici, chiaro, questo non c'è dubbio.